Attacchiamo, va. Sono mandre di marionette, stupidi buffoni sono. Mazze di carte cadono, questi scossoni sono. Le figurine che ti scambi per due lire. La finzione più totale mi sta voglia di apparire. Tu che speri in un futuro ricco di minchiate da sceico. Non hai capito un cazzo, ma va avanti dritto. Ti guardi intorno e cerchi un po' di approvazione mentre tenti di arraffare qualche visualizzazione. Perché qua Twitter virtuale ed è l'immagine che conta. Questo cosa ci racconta? La divisa è un'anaconda. Dentro a clip dove niente è similare. Arrivi con le fighe in braccio, due ti riempono il boccale. Non esiste questa vita ed è una favola per bimbi. Guarda dentro alle tue linee, forse poi te ne convinci. Mentre già io sto vivendo la fine della puntata. Tu conta il tuo poco tempo e dopo fatti una risata. Buffoni, voi restate fuori da sta scena. Con i rap senza gioielli vi strappiamo la catena. Buffoni, non parlatemi di strada in ste canzoni. Non c'è strada senza uomini dotati di coglioni. Buffoni, voi restate fuori da sta scena. Con i rap senza gioielli vi strappiamo la catena. Buffoni, non parlatemi di strada in ste canzoni. Questa strada adesso è nostra e voi restate fuori. All'offerto per killer, voi bambi tipo Ben Stiller. Persi nelle giungle finte, in questa storia si distingue la falsità dei testi, nei gesti e di ciò che investi. O resti solito nel campo oppure perdi i tuoi pezzi. E tu che sei ballato col pezzo con l'autotune. Ti stacchiamo la corrente così poi non canti più. Io non sparo, fumo bombe, torno a casa distrutto. Questi rapper fanno brutto, ma loro è tutto un trucco. A zero babbi passo, street video di sto caso. Sono più street in infradito in casa mia sul terrazzo. E tu, quei tuoi concetti di chi ha il ferro per sparare. Qui non valgono buffone o la corazza lessicale. Lascia stare, non sei metrico, patetico, antiestetico. Anti-rapper con il pezzo, sei un artista sintetico. Io non predico lezioni su canzoni da svarioni. Il mio rap è la risposta, coglioni, che vedo fuori. E qua c'è traffico, overkill 89 sulle spine, sono spine spite sulle vostre lime. Le tue rime sono misere, fare rap così pare sia come ubriacarsi con un Bacardi Breezer. Lo sopporto chi si vede, soprattutto chi fa musica del cazzo. Nonostante il cambio non riceva niente. Buffoni, e pensare che mi credevo un rapper. Ma sono qui, sono un povero stronzo in mezzo a tante merde. Se questa scena c'è sui limiti, ci sono buffoni che pagano altri buffoni per fare un featuring. Siete ridicoli quando siedo sul cesso. Io mi sento vostro pezzo per avere i giusti stimoli. Fate cagare ma devo complimentarmi. Mai sentite così tante cazzate in 16 quarti. Se fatto tardi devo salutarvi e fare il culo tutti quanti. Vai overkillarmi. Buffoni, voi restate fuori da sta scena. Con i rap senza gioielli vi strappiamo la catena. Buffoni, non parlatemi di strada in ste canzoni. Non c'è strada senza uomini dotati di coglioni. Buffoni, voi restate fuori da sta scena. Con i rap senza gioielli vi strappiamo la catena. Buffoni, non parlatemi di strada in ste canzoni. Questa strada adesso è nostra e voi restate fuori. Per fare gavetta loro spaziano nel palco, ma lo spazio tra le chiappe di un altro. E fanno gavetta le campe per un aggancio. La presenza che venda tuo primo album, che senza rotolerebbe al contrario in rampa di lancio. Che cazzo, fanno a gara stimarci sia chi mi fa più cagare fra il Guttalax ed il confetto Falco. Viaggi di harem di rispetto stanno ad autocelebrarsi. Ma sono alla frutta, scarti la puccia, ce vanno a mare. E sono tanti e spenti in lista, zi immobili come dolmen. Su argomenti degni di un tronista, di uomini e donne. Io sto in pista con la mia famiglia e so le spalle larghe. Che sei anni di serate, poi ti alleni a sollevarle. Quelle fighe, quelle marce dove ti ritrovi sopra. Sono le balle di fieno che spingono la tua strofa. Fiero di essere fuori da ogni magna magna. Per voi buffoni non ho più parole come l'inno della Spagna. La collana, il macchinone, la puttana che ti vuole. La tua gente ti rispetta, sei solo una barzelletta. Cazzare, sai fa male continuare ad ascoltare. Vuoi rappare delle pare, della droga che vi sale. Della figa da scopare, della fuga, del mestiere, delle sere. Quelle da coma, di te del perizoma. Ok, io tra poco tolgo il disturbo. Tu sembri scemo, ma col cazzo che sei furbo. Non vado veloce, non hanno rime spesse. La tua voce lo sai, sì, mi stona le orecchie. Tra voi c'è chi fa il grosso e chi lo fa per gioco. C'è chi lo fa da troppo e chi da troppo poco. Se credete fate, dai vi prego continuate, che mi faccio due risate. E se poi risponderete, proprio non ci toccherete. Perché sostanzialmente voi chi cazzo siete, eh? Chi cazzo siete? Attacchiamo, va! Ma me che me ne frega, tanto i soldi non ce l'ho!